Per Greenpeace è incomprensibile la ragione, insomma, questo blocco da parte di Berlusconi e dei suoi ministri di Forza Italia nei confronti di un decreto che è assolutamente urgente e necessario per tutelarci da una contaminazione irreversibile causata dagli OGM. Con l'inserimento lo scorso 8 settembre nel registro europeo delle sementi delle 17 varietà transgeniche di MON 810 della Monsanto, che è appunto una varietà di mais transgenico della multinazionale statunitense, è diventato ancora più urgente la necessità di avere una normativa nazionale che ci tuteli da un utilizzo senza appunto regole in campo di organismi geneticamente modificati. È assurdo che sia Berlusconi che anche il ministro dell'ambiente Matteoli, invece di tutelare la nostra agricoltura e il nostro ambiente, sembra che stiano invece tutelando interessi che sono più simili a quelli delle multinazionali biotech. Quali sarebbero le conseguenze per l'agricoltura italiana? Il surplus, diciamo, il valore dell'agricoltura italiana sono le produzioni tipiche che sappiamo fare molto bene, come i vari DOP, eccetera, eccetera. Un utilizzo di OGM, quindi una contaminazione in campo di organismi transgenici, porterebbe alla fine di tutto questo a un'omologazione della nostra agricoltura, quindi togliendole quell'unico valore di qualità che la distingue dal resto delle produzioni mondiali, quindi toglie il valore aggiunto che sta facendo beneficiare l'Italia di una nomea a livello mondiale. Quindi un danno economico? Un danno ovviamente innanzitutto in primis economico, ma poi sul lungo periodo anche all'ambiente in generale, perché avremo l'introduzione di organismi viventi e quindi che tenderanno a riprodursi, ad adattarsi alle 20 circostanze, quindi una operazione assolutamente irreversibile per l'ecosistema italiano.